っちもね。 radioazione.org radioazione controinformazione, letture, provocazioni, musica radioazione radioazione.org radioazione controinformazione, letture, provocazioni, musica. Thank you. rapporti virtuali, lotte virtuali, internetari rinchiusi nelle camerette con tante di aria viziata e il cielo in una stanza. Questa da parte di alcuni anarchici. Rapporti stretti con gli anarchici greci per la formazione di una cellula d'attacco. Minaccia. Incoraggiamento all'urgenza dell'attacco ad una centrale nucleare tra Slovenia e Croazia. Minaccia. Rapporti anche intimi con persone sgradite nei loro paesi. Minaccia. Rapporti tra progetti che traducono un certo tipo di testi. Minaccia. L'ospitare sul proprio server un sito come Radiazione. Minaccia. Questi invece sono la controparte, l'intelligence, i servizi segreti, i terroristi per eccellenza. Tra le illazioni di alcuni anarchici, gli incubi dei 007 e le pantere rose con tanto di buco nel quotidiano che ci seguono anche a fare la spesa la domenica mattina, noi ci poniamo ben oltre. Tutti pensano di sapere noi chi siamo o cosa facciamo. Non ci resta che piangere? No, non ci resta che farci due risate leggendo la fantasia altrui. Sorridiamo a tutto ciò, sorridiamo, ma allo stesso momento continueremo a portare avanti il progetto di Radiazione, non come l'abbiamo fatto fino ad ora, ma con la rabbia in corpo e il sangue agli occhi ancora più forte. Continueremo a propagandare i testi dei compagni che hanno deciso di passare all'attacco, sperando che possano dare spunto a nuovi attacchi contro strutture del potere e i suoi cani da guardia. Continueremo a solidarizzare con i compagni detenuti in tutto il mondo e ci muoveremo oltre frontiere. Volete sapere come la pensiamo sull'azione diretta? Leggetevi il sito. Quello che pubblichiamo è anche quello che in gran parte condividiamo. Solidale con Erika, Radiazione Croazia, e il compagno di The Anarchist Library che ci ospita sul suo server Radiazione. Now Radiazione, diretta d'azione, lunedì 26 gennaio 2015. Diretta d'azione che abbiamo iniziato con un piccolo testo che poi dopo verrà anche pubblicato sul sito di Radiazione, riguardo una visita poco gradita, a parte che noi siamo persone sgradite nei nostri paesi, ma anche le loro visite sono sgradite, visita da parte dei servizi segreti ai compagni in Croazia, e poi in specifico alla compagna che porta avanti il sito in croato di Radiazione e il compagno che porta avanti il progetto di Anarchist Library, che tra l'altro ha il server su cui viene ospitata anche Radiazione, sia per le dirette che per il sito. Ricordiamo che oggi, come tutti i lunedì, la diretta d'azione comprenderà non solo la controinformazione, ma soprattutto la lettura. Stiamo leggendo il romanzo di Sergio Piasecki, Nessuno ci salva, con cui siamo arrivati già ben oltre la metà, e quindi già nel pieno della storia dei ladri e dei dritti e dei merli, oppure dei ladri e dei derubati. E due settimane fa avevamo finito anche con Nazero 13, che prima o poi vedrà la luce. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, notizie da poter pubblicare sul sito di Radiazione e così contribuire all'aggiornamento del sito, oppure anche mandare dei consigli sui libri da leggere su Radiazione nei lunedì di diretta. Lo ricordo, libri di narrativa o non testi anarchici, narrativa che comunque hanno delle tematiche bene o male affini con quelle affrontate sul sito di Radiazione, sito di Radiazione che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare anche le vecchie dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast e scaricarvi un bel po' di materiale tra opuscoli, libri, CD, manifesti, adesivi, tutto quello che i compagni internazionali inviano a Radiazione per poterlo rendere pubblico e poterlo farlo scaricare gratuitamente. Poi, lo ripeto, sa chi lo scarica e lo mette in diffusione il fatto di mandare qualche euro alle casse di compagni, le casse che si interessano per quanto riguarda i compagni detenuti in tutto il mondo. Il server, la radio Radiazione è ospitata sul server anarchia.net, come dicevo prima, messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, a cui va un saluto e la solidarietà, oltre al ringraziamento per averci aiutato a migliorare un po' il tutto. E che dire, ora ci ascoltiamo un brano di Battle Surfers, poi dopo si torna qui e si inizia subito con la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. We'll be right back. Questi erano Battle Surfers, Who Was in My Room Last Night, Chi è stato nella mia stanza la scorsa notte. I servizi segreti. Mai pezzo fu più appropriato per iniziare una diretta d'azione. Oggi lunedì 25 gennaio cominciamo col primo breve estratto dal nuovo capitolo di Nessuno ci salva di Sergiu Spiasecki. Ricordiamo che stiamo in una fase abbastanza delicata del romanzo, perché sia Jan che Baran sono stati incarcerati e ci siamo lasciati lunedì scorso con il diciamo l'approssimarsi di una liberazione, di un'evasione di massa che però, come abbiamo finito di dire, rosso come il sangue, stava per levarsi lo stendardo della liberazione, ma nessuno ancora lo sapeva all'infuori dei pochi dritti. Dalle mura di pietra non si esce. I cuori battevano con ritmo accelerato, ma nulla di fuori lo lasciava sospettare. Nella sezione media regnava il silenzio e, come al solito, uno degli anziani di prigionia, quel giorno era Zubilo, faceva la ronda su e giù per il corridoio. Apriva la spia di ogni cella, lanciava uno sguardo nell'interno e, se un dritto si avvicinava per consegnare o per ritirare qualcosa, gli bisbigliava rapido: ci siamo. Il dritto non rispondeva, si voltava verso i compagni e bastava un'occhiata a un ammiccare impercettibile degli occhi oppure un sussurro. In pochi istanti, eccettuato qualche merlo, tutta la cella sapeva. I secondini, nonostante l'apparente calma, parevano accorgersi che c'era qualcosa nell'aria, ma abituati come erano agli alti e bassi dell'umore dei detenuti, non davano importanza alla cosa, tanto più che gli avvenimenti militari aspettavano da un'ora all'altra grandi mutamenti a Minsk. Essi stessi ne erano eccitati, non si meravigliavano perciò del nervosismo che regnava nel carcere. Quel giorno era di servizio nel corridoio della media Fungo, un guardiano sempre taciturno e cupo. Da 20 anni era addetto alla prigione di Minsk, conosceva bene i suoi polli e la sua esperienza era tale che difficilmente gli sfuggiva un mutamento del loro stato d'animo. Disprezzava i delinquenti comuni, ma aveva un profondo rispetto per i dritti. Ne temeva i superiori, per cui non si azzardava mai a trattarli con severità, anche se talvolta il suo dovere gliel'avrebbe imposto. I dritti avevano un atteggiamento piuttosto benevole verso di lui ed erano spiacenti che il giorno della fuga fosse capitato proprio quando era di servizio in Fungo. Sapevano che in seguito avrebbe dovuto rispondere alle autorità degli avvenimenti di quel giorno memorabile. La Set, riunita vicino alla finestra, stava prendendo gli ultimi accordi. Baran, Gian e Lucio, Varlam e Knot sedevano sul davanzale sui cavalletti delle brande, parlando piano tra loro. Si erano assunti tra loro il compito di impossessarsi del corridoio della media e di dirigere l'azione. Erano dunque loro che dovevano disarmare il fungo e ridurlo all'impotenza. «Mi incarico io di tirargli le redini», disse Varlam, un avvigiatore noto per la sua forza. «No», decise Baran, «lascia fare a me, tu ti metterai dietro e se mai tentassi di gridare afferralo per la gola, penserò io a disarmarlo». Decisero di non sopprimere il bravuomo, a meno che non fosse proprio indispensabile. Quanto al secondo guardiano, quello della cucina, non era difficile metterlo fuori combattimento, perché non avendo armi non avrebbe potuto opporre alcuna resistenza. Varlam si fregò le mani soddisfatto. «Va bene, purché si faccia presto». Gian si aggirava per la cella come una tigre in gabbia. Certo stava macchinando qualcosa. Ignazio, seduto sul davanzale, fischiettava e Baran si lustrava le scarpe con la coperta, pensando a Pavka. We'll be right back. powers to the mind. This weak body far behind, now closing in. Hungry to begin. An ancient door to hidden light. The coming time to discover a step across the edge of dawn. Questi erano Covenant con il brano Age Down, Joe Down. Ora si riprende il discorso con cui si era iniziata oggi la diretta d'azione, all'incirca la visita da parte dei servizi segreti croati a casa di due compagni in Croazia. Una è la compagna di radiazione croazia, l'altro è il compagno di Anarchist Library, che tra l'altro, come dicevo prima, anche il server su cui ospita radiazione, sia come sito che per le dirette radio. Il prossimo, il testo che andiamo a leggere è proprio lo scritto di Erika, la compagna di radiazione croazia, che ci spiega nello specifico cosa è avvenuto l'altra mattina. Allora, Pula, Croazia. Nella mattinata del 23 gennaio 2015 si presentano gli agenti dei servizi croati SOA perché vogliono parlare con me riguardo al mio sito Radiazione Croazia e con il mio marito, compagno anarchico, cittadino italiano che gestisce e anche ospita altri siti anarchici tra cui Radiazione, minacciandolo di espulsione dal paese. Il discorso si apre con le minacce indirizzate alle mie relazioni personali, sia attuali che future, supponendo loro che queste sono e potranno essere realizzate solo con gli anarchici, ovviamente non croati, e mi avvisano che la Croazia non ha intenzione di diventare il covo per le persone che rappresentano un problema per i propri paesi d'origine. Qua è ovvio il riferimento alla mia relazione con il compagno di Radiazione Italia. Le minacce ovviamente non si limitano solo alla mia relazione con i compagni, ma mi avvertono anche che ogni cittadino straniero che in futuro verrà a trovarmi in Croazia, sia esso anarchico o meno, sarà trattato da sospetto. E poi si perdono nelle solite minacce riguardo ai miei genitori, la mia posizione di disoccupata, possibili perquisizioni, arresti, eccetera. È chiara la loro intenzione di intimorirmi minacciando di isolarmi qua in Croazia, lontano dai miei amici italiani e greci, un'espressione che hanno utilizzato varie volte, perché pure loro sono coscienti del fatto che non potrei aspettarmi qualche collaborazione, attività o simile con l'ambiente locale. Mi fanno anche sapere che conoscono altri anarchici in Croazia, ma che loro, a differenza di me, non rappresentano un problema, che io sono un caso unico e singolare per questi territori, lasciando capire che agli altri anarchici in Croazia non importa tanto delle mie idee, e che sono anche a conoscenza del fatto che sono stata io a introdurre anni addietro le teorie insurrezionaliste su questi territori o oltre, con le traduzioni dei testi di Alfredo Maria Bonanno, un punto sul quale hanno insistito abbastanza. Da prendere in considerazione che i testi in questione sono pubblicati sulla sezione serbo-croata del sito web di The Anarchist Library, oppure c'è anche il nome in rifiuto di leggere per non fare figure di merda, e che sono stati distribuiti nel passato sotto forma di opuscoli. Si sono mostrati molto curiosi sulle teorie di Bonanno e sul suo ruolo e influenze nel movimento anarchico italiano e oltre, e anche sulle differenze all'interno dello stesso tra gli anarchici e gli insurrezionalisti e la FAI. A questo punto li ho invitati a rivolgere queste domande ai loro colleghi italiani, dato che è fin troppo ovvio che sono loro ad orchestrare il tutto. Anche se l'interesse delle autorità croate verso di me e il compagno risale ad anni indietro, in base alle mie informazioni, il loro possesso su entrambi, raccolte probabilmente da mail, intercettazioni, controlli, eccetera. Un altro testo verso cui hanno espresso timori è la mia traduzione della dichiarazione di Alfredo Cospito da Ventre del Leviatano, pubblicata anch'essa sul sito in croato di Slabrady, sotto forma di opuscolo assieme alla dichiarazione di Nicola Gai intitolato Attacco all'energia nucleare. Quello che in questo testo incute timori è il fatto che viene citata la centrale nucleare di Krško, situata sulla frontiera sloveno-croata in Slovenia, vicino alla capitale croata di Zagabria. A questo punto si sono collegati alla mia collaborazione con la Croce Nera Anarchica Italiana e alla mia attività di solidarietà e sostegno ai miei amici italiani e greci in carcere. È da notare anche il fatto che sia nel mio caso che quello del compagno l'attenzione per un momento avvertito sulla fiera del libro anarchico di Zagabria, nel mio caso nello specifico quando è stata presentata l'operazione Ardire e il caso Adinolfi, tra lo sgomento e l'indignazione di molti. Per quanto riguarda il mio sito Radiazione Croazia, questo ovviamente è tutto problematico, le mie traduzioni, delle rivendicazioni, teste, lettere, eccetera. I due agenti hanno cercato anche di formulare qualcosa di coerente sulla FAI in Grecia e oltre, ma senza successo. Da tralasciare altri teoremi e deliri dei due, come ad esempio i legami tra la musica punk e l'alimentazione vegana o veganesimo con l'anarchismo. Riassunto in meno linee possibili l'accaduto, non mi soffermo sulle analisi che lascio ai lettori di questo testo. L'unica cosa che vorrei sottolineare, dedotta da questa conversazione, che si tratta, conversazione tra virgolette perché è stato un monologo loro, che si tratta, essendo in gioco i servizi segreti di un progetto a livello internazionale, solo qualche settimana fa è stata tradotta dal sito polacco di controinformazione Grecia, WONU, e pubblicata su Radiazione Croazia e Radiazione Italia e Act for Freedom Now, una relazione del Ministero della Repubblica Ceca sui rapporti tra gli estremisti dell'Europa centro-orientale e della Grecia. Minaccia a parte, sembravano sondare le possibilità di creazione di una cellula italo croato-greca in Croazia. Mi sembra più che ovvio che i loro colleghi negli altri paesi, soprattutto in Italia, stanno seguendo e cercando di costruire, nulla di nuovo, un terrorismo internazionale sulla famosa rotta italo-greca e che sono in cerca di anelli di congiunzione, specialmente in questo periodo dell'isteria terrorista in Europa. Dello stesso giorno è la notizia di stampa che la Croazia, paese membro dell'UE, ma non facendo parte della zona Schengen come frontiera dell'UE, stia intensificando e intensificherà i controlli fronte al terrorismo. E la presentazione del premier francese del disegno di legge sulla sicurezza nazionale, ricalcato sul Patriot Act americano varato dopo l'11 settembre. E nella mattinata del 25 gennaio, giusto in tempo che arrivasse il verbale agli agenti degli agenti della SOA, ai colleghi italiani, già il compagno di radiazione Italia viene pedinato nel quartiere dove vive mentre faceva spesa al mercato. Amore e solidarietà ai miei compagni e amici italiani e greci, nothing is over, everything continue. Niente è finito, tutto continuo. Erika, radiazione Croazia. E questo era il testo che bene o male racconta un po' la mattinata di qualche giorno fa, con questa visita di questi luschi figuri ai due compagni in Croazia. Quello che dovevamo dire come radiazione l'abbiamo detto come intro, sono cose che comunque accadono periodicamente anche in Italia. Anche ultimamente abbiamo letto un testo di un compagno che a Roma è stato pedinato, è stato minacciato addirittura mentre era sul motorino, al aggredito, semaforo, che possiamo dire aggredito. Quindi queste minacce sono ogni tanto, sono periodiche da parte dei servizi segreti, che non tanto non sono più tanti segreti quando escono allo scoperto. Questo non farà in modo che radiazione si ferma, anche è come ho detto prima, continueremo e forse anche più forte di prima, con la rabbia in corpo e sangue agli occhi. Ora ci ascoltiamo un brano, New Object di Yedult, e poi dopo si torna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. New object. I minuti passavano lenti, ma ognuno che passava, Ancio, che era pure il segnale della rivolta. Le celle erano piombate in un silenzio carico di elettricità. Ormai non c'era più nessuno che non sentisse nelle proprie viscere l'imminenza di qualcosa di insolito, di anormale. Le orecchie erano tese nell'ascolto e i nervi tesi nell'aspettazione. Anche il fungo non era capace di sottrarsi a uno strano senso di inquietudine che lo dominava. Con le sopracciglia aggrottate, facendo tintinnare il suo mazzo di chiavi, andava su e giù per il corridoio, sputando nervosamente per terra. C'era qualcosa che non gli quadrava quel giorno. «Ma cosa diavolo mi stanno macchinando sti demoni?» si chiedeva ogni tanto. Ma le celle non davano segno di vita. Improvvisamente... il silenzio fu rotto dalla voce del grillo che gridava dal pian terreno. «Rancio!» I secondini di tutti i reparti si mossero dal fondo dei rispettivi corridoi e staccarono dal muro con gesto abituale e la tabella sulla quale era notata la forza presente dei prigionieri. Anche il fungo si alzò dallo sgabello sul quale si era appena seduto per verificare l'elenco dei detenuti nel suo reparto, che non corrispondeva a quello segnato sulla tabella. Lanciò un'occhiata sospettosa sugli uomini destinati ad andare in cucina a prendere le marmitte e avevano tutti l'aria più innocente di questo mondo. «Settima!» chiese, benché la domanda fosse perfettamente superflua. «Sì, signore!» rispose premuroso uno dei detenuti. Lanciò un potente sputo e si avviò scrollando il mazzo di chiavi verso la cella. Vi gettò dentro un'occhiata, fermandosi in ascolto. Non li aveva mai visti così tranquilli all'ora del pasto. Aprì la porta, poi fece il solito gesto stereotipato che ripeteva da anni. «Avanti! Andate a prendere il rancio!» Per primo uscì Gian Dente d'Oro, seguito immediatamente da Baranda, Varlam e da Ignazio. «Ah, speriamo che ci sia un secondo piatto oggi», scherzò quest'ultimo. «Eh sì, cosce di pesce alla cacciatora», buttò Gian. Varlam sbadigliò rumorosamente. Ma il fungo, non si sentiva per nulla tranquillo. «In cucina, presto!» ordinò. I sei uomini si avviarono verso le scale, seguiti dal guardiano, lasciandosi addietro la media immersa nel silenzio. Il fungo sbottonò la fondina della pistola e passò le chiavi nella mano sinistra. Allora Baran, con una mossa fulminea, gli strappò la rivoltella dalla custodia, indietreggiò d'un passo e intimò al fungo. «Le chiavi, svelto!» Il volto del fungo si fece terreo. Poi scarlatto, non si mosse ma lanciò intorno a sé una rapida occhiata per vedere se mai giungesse qualche altro guardiano. «Varlam, prendigli le chiavi!» ordinò Baran. Il colosso si mosse, ma il fungo si strinse al petto il mazzo con tutte e due le mani. «Non ve le do, non ve le do! Ho prestato un giuramento io!» Sapeva di non poter opporsi a lungo, ma voleva fare il suo dovere fino all'ultimo. Si divincolava sotto la stretta di Varlam senza mettere un grido per non costringere i rivoltosi a rincorrere a metodi più violenti. In pochi secondi venne ridotto all'impotenza e dovette abbandonare il mazzo di chiavi. «Non imbavagliatelo», disse Baran, e lasciando l'uomo sulla scala sotto la sorveglianza di Lucio e di Knot, corse giù in cucina seguito dagli altri. Teneva la rivoltella nascosta sotto la giacca e le chiavi nella manica sinistra. La cucina era immersa in una fitta nebbia di vapore che si sprigionava dalle pentole. Uno dei dritti, addetti alla cucina, aveva preparato così il terreno. Il grillo si trovò legato e imbavagliato in un batter d'occhio. Non aveva avuto neppure il tempo di accorgersi chi l'avesse aggredito. 12 detenuti, ai primi si erano uniti quelli della cucina, presero ora i sei pentoloni con la zuppa e si diressero verso il corridoio del pian terreno. Vi lasciavano di solito 4 recipienti. Il guardiano, abituato a vedere arrivare quella processione 2 volte al giorno, aprì la porta senza alcun sospetto, ma non fece in tempo a voltarsi che una mano di ferro gli tappò la bocca e una benda gli calò sugli occhi. Tentò di gridare, ma il grido gli morì nella strozza. Disarmato e legato, venne condotto nella cella, in fondo al corridoio dove erano già stati rinchiusi i 2 altri guardiani. La cucina e i 2 reparti erano così nelle mani dei dritti. Distribuite il rancio! Non lasciate uscire nessuno, ordinò Baran consegnando le chiavi al primo reparto e una delle due rivoltelle a Gian. La sbobba! Gridò uno dei dritti mentre Gian apriva le celle e, rimanendo dietro la porta per non farsi vedere, lasciava passare gli uomini con la marmitta. Gli altri dritti, intanto, procedevano allo stesso modo nel secondo reparto dove la parte di guardiano fu assunta da Ignazio Kulikovski. E intanto Baran, Varlam, Melluccio e Knot salivano la scala del terzo reparto dove il guardiano venne, come i suoi colleghi, sistemato in un batter d'occhio. Tutte le operazioni riguardanti la distribuzione del rancio vennero ripetute anche lassù, perché nulla di anormale venisse notato nell'edificio di fronte dove si trovavano gli uffici. I detenuti mangiavano seduti sulle finestre o passeggiavano nelle celle, tutto si svolgeva nel solito ordine di tutti i giorni. Solo quando tutti i reparti furono nelle mani dei capi della rivolta vennero aperte le celle. «E chi vuol fuggire allora adesso gambe? Chi vuol restare stia zitto? Si accara la pelle!» Tutti i dritti si affrettarono a lasciare le celle, scesero le scale e si raggrupparono presso la porta d'ingresso. Pochi merli, solo pochi merli, li seguirono. Gli altri, spaventati per le possibili conseguenze della rivolta, guardavano pallidi e tremanti tutto quel paraviglia. You wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all of the time. What else is in the teachers of peaches? Exits on the beaches, what, huh, right, what, huh, what, right, S-I-S, stay in school, cause it's the best. I-U-D, S-I-S, stay in school, cause it's the best. I-U-D, S-I-S, stay in school, cause it's the best. Sucking on my titties like you wanna be calling me all the time. Like Blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh? What? Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Peaches, peaches, sex on the beaches. What? Right on. Fuck the pain away. Fuck the pain away. fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away. Questa era Peach con il brano Fuck the Pain Anyway. Ora si ritorna alla controinformazione con un testo che arriva dalla Grecia, edito dai compagni delle CCF, la cospirazione delle cellule di fuoco, che ha per titolo Facendo aria pulita. Venerdì 16 gennaio 2015, ufficiali di polizia di Dipartimento Estorsioni, accompagnati da ECAM, reparto antiterrorismo, hanno invaso le celle in cui sono ristretti membri della cospirazione delle cellule di fuoco nei sotterranei delle ali in isolamento, per la seconda volta in 10 giorni, dopo una prima incursione degli stessi reparti. Durante le successive perquisizioni hanno preso agende telefoniche, carte per chiamare, chiavette USB e annotazioni politiche manoscritte. Il proposito era il ridicolo tentativo da parte della polizia e dei media di presentare la nostra organizzazione come se avesse connessione con i cosiddetti circoli notturni dell'estorsione. Queste mitizzazioni servono a depoliticizzare le cellule di fuoco e i circoli dell'anarchia nera. Vogliamo chiarire quanto ovvio: il nostro codice di valori e la nostra coscienza anarchica e ribelle sono opposte ed ostili a quanto praticato da mafia e crimine organizzato. Comunque, il vero crimine organizzato rimane quello dello Stato e della polizia. Oltre a ciò, noi non scusiamo né rigettiamo le nostre amicizie. Da giorni i giornalisti a servizio della polizia strumentalizzano le nostre relazioni ed amicizie, usando come bersaglio il nostro amico Vasilis Stefanakos, per paventare la costruzione di un'osmosi terroristi criminali e creare nuovi casi giudiziari. Stiamo in ogni modo difendendo questa amicizia, che non si adatta alle etichette di terroristi né di criminali attribuiti dai tribunali e dai resoconti giornalistici. Questo amico, nello specifico, come altri prigionieri a lungo termine che sono citati nelle notizie, non hanno nulla a che fare con il programmatico tentativo di fuga. Questi ridicoli scenari tra la connessione tra le cellule di fuoco con il crimine organizzato stanno cercando di insozzare l'ovvia bellezza del tentativo dei compagni di rompere la monotonia della cattività. Cosa c'è di più bello di una prigione che esplode? Cosa c'è di più brutto di una menzogna che non è avvalorata neppure dai suoi istigatori? Cosa c'è di più ovvio della vendetta? Se la libertà è un crimine, diventiamo tutti criminali. 17 gennaio 2014, cospirazione delle cellule di fuoco, cellula dei prigionieri. Poi c'è una nota del traduttore dal greco all'inglese, Circo Individualist Anarchist, che dice: il prigioniero a lungo termine Vasilis Stefanakos sta scontando una condanna come uno dei principali componenti del crimine organizzato in Grecia. Questa era per quanto riguarda la notizia della Grecia. Dopo ne seguiranno altre, diciamo che la maggior parte vertirà tutta sulla Grecia, la controinformazione di oggi. Però per ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Rally Zero con il brano For Real. Poi dopo si torna qui con ancora una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Save that. Intanto i rivoltosi si disponevano a uscire in cortile per dirigersi verso la lavanderia. Tutti si rendevano conto che i minuti seguenti avrebbero deciso della loro libertà e della loro vita. Nel corridoio della media c'era una porticina che conduceva nella cappella del carcere e veniva aperta solo quando c'era funzione, alla quale avevano il permesso di assistere i detenuti. Impadronendosi del secondo reparto, i dritti non ci avevano badato. Nell'interno si trovava invece un guardiano che assorbiva anche alle funzioni di sacrestano e teneva in ordine la cappella. Dapprima non fece caso ai rumori che provenivano dal corridoio, pensando che fosse il solito via vai di ogni giorno all'ora del rancio, ma poi le voci e lo scalpiccio che gli giungevano da dietro la porta, tutt'altro che normali, finirono per insospettirlo. Si avvicinò alla porta e rimase in ascolto. Era chiaro che i detenuti erano usciti dalle celle e che il cellulare si trovava nelle loro mani. Il terrore lo invase. Con mani tremanti si chiuse a chiave nella cappella. Un usciolo conduceva di lì in solaio, ma era chiuso con un lucchetto ed egli non ne possedeva la chiave. Perse parecchio tempo prima di riuscire a scardinare l'usciolo, fortunatamente di legno fracido. Salì in solaio e di lì si inerpicò sul tetto, ma non ebbe il coraggio di gridare perché temeva che i detenuti potessero udirlo e in tal caso gli avrebbero certamente fatto la festa prima che giungessero soccorsi dal corpo di guardia. Dopo qualche attimo di incertezza, però, ebbe un'idea. Si spogliò in fretta, si tolse la camicia, indossò ancora la giubba e si issò faticosamente su un alto camino. Ritto, in piedi, lassù, incominciò a sventolare la camicia come una bandiera, attirando dopo un po' l'attenzione di un vecchio signore che passava con la moglie sul marciapiede di fronte. I due si fermarono e la moglie disse al marito: «Guarda, oh, guarda lassù, chi sarà? Un pazzo?» Il vecchio guardò attentamente: «Ma questo non è mica il manicomio, questo è il penitenziario, il carcere!» Evidentemente quell'uomo voleva attirare l'attenzione della gente su qualcosa di grave che stava accadendo dentro le mura. «Ma sarà mai forse che i detenuti stanno per evadere dal carcere? Bisogna avvertire la sentinella!» E allora, da buon cittadino, lasciò la moglie e si diresse verso il portone a passi decisi. «Non andare, non andare, ti uccideranno per vendicarsi!» tentò di fermarlo la donna. «Sta buona! Se riuscissero a scappare sarebbe peggio, ci scannerebbero tutti quanti. Figurati, ci sono dei delinquenti pericolosissimi lì dentro. È mio dovere di cittadino!» Dopo pochi secondi gli uffici erano tutti in subbuglio. Sbarrato il portone dalla parte del cortile, vennero consegnate le armi automatiche a tutti i guardiani disponibili e il telefono si mise a squillare. I tedeschi, l'esercito tedesco, non avevano ancora evacuato del tutto la città. La maggior parte della guarnigione era uscita, ma molte truppe si trovavano ancora a Minsk. Sembrava che i russi non avessero alcuna fretta di occupare la piazza. 5 minuti dopo che fu dato l'allarme dal carcere per invocare l'intervento delle forze d'occupazione, 2 autoblinde germaniche si avvicinarono al portone, che venne subito spalancato. Le macchine entrarono rombando nel cortile e un altro reparto armato tedesco, giunto in camionette, circondò le mura del penitenziario. Intanto i rivoltosi, ignari di ciò che stava succedendo, si erano raggruppati a pian terreno, disponendosi a fare irruzione nel cortile e a dare l'assalto all'edificio di fronte al portone per aprirsi un varco verso l'esterno. I capi davano le ultime istruzioni per l'azione decisiva. Quelli che avevano deciso di restare stavano appoggiati alle pareti per non intralciare i movimenti. Ad un certo punto si udì il rombo delle autoblinde che entravano nel cortile. Nessuno più fiatò né si mosse. Si guardarono negli occhi, allibiti, incapaci di comprendere come si fosse potuto verificare un simile colpo di scena, di cui peraltro valutarono in tutta la loro gravità le conseguenze. Il silenzio era tale che pareva di non udire altro che il battito precipitoso dei cuori. «Cilecca!» ringhiò qualcuno. «Tradimento!» ruggì Varlam, strappando la cintura alla rivoltella. Ad un tratto si fece udire la voce crepitante della mitragliatrice che diresse una raffica verso il muro del cellulare. Il panico si impadronì dei detenuti, che si misero a fuggire verso il fondo del corridoio. Solo pochi dritti rimasero sul posto. Baran chiuse in fretta la porta a catenaccio. Una seconda raffica sgretolò il muro mentre voci concitate si avvicinavano alla porta. I dritti sembravano perplessi. Allora Ignazio, folle d'ira, con gli occhi fuori dalle orbite, si rivolse ai compagni. «Beh, ragazzi, in ogni caso, nessun rimorso. Difendiamoci, barrichiamo la porta, abbiamo qualche arma e viveri per almeno una settimana. Vengano a prenderci se hanno il fegato, ci difenderemo reparto per reparto, si dovranno rompere i denti prima di rinchiuderci ancora in cella». «Eh sì, va bene, e poi?» chiese Fosco e Lucio. «È inutile resistere, dimentichi che siamo in una galera», aggiunse Knot. Varlam, torvo, taceva. Gian Dentedoro sbottò. «Io mi difenderei anche da solo, ma a che servirebbe? Servirebbe a sfuggire alle loro grinfie. Sai che cosa ci aspetta se ci acciuffano?» insistette Ignazio. «Siamo in troppi. Non ci faranno un granché se ci arrenderemo subito. Finora non abbiamo ammazzato nessuno». Yeah. Allora, questi erano Rabbi Junk con il brano In Your Head, No One Can Hear You. Ora si passa alla controinformazione con il testo di un del manifesto che ha chiamato il presidio sotto carcere di Ferrara il 25 gennaio e quindi ieri. Allora, il testo che non è uno straordinario. Ieri c'era chi faceva gli straordinari. Ieri c'era chi faceva gli straordinari accompagnandoci a fare la spesa al mercato. Invece i compagni a Ferrara facevano un presidio contro il carcere. Leggiamo il testo: contro il carcere come istituzione repressiva e come modello sociale, solidarietà a tutti i compagni e le compagne arrestate. Da sempre il carcere è stato per il potere un vero e proprio laboratorio in cui creare e sperimentare modelli di controllo sociale. Scuole, fabbriche e ospedali hanno come loro paradigma architettonico e disciplinare il carcere. L'intento è sempre stato quello di accumulare corpi, prerogativa indispensabile per accumulare capitale. Ciò comporta un controllo e una repressione esercitati costantemente a vari livelli e che si è evoluta nel tempo. Tra le ultime evoluzioni della TECAR è la riforma per la differenziazione carceraria, di cui la regione Emilia-Romagna ne è promotrice, e l'estensione del 41 bis anche ai condannati politici. Da una parte si crea una pericolosa zoologia del delinquente in cui incasellare quella parte della popolazione non compatibile alla norma, ritenuta più importante dell'individuo. Dall'altra si ha un'intensificazione della repressione di tutte le reali forze di cambiamento sociale che si battono contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sul pianeta. Se il carcere criminalizzava la lotta politica, ora la fa diventare terrorismo. Essere etichettati come terroristi non è mai stato così facile. Il carcere duro di Ferrara, che detiene in S2 compagni anarchici, rappresenta uno degli emblemi di questa logica repressiva e punitiva. Riteniamo necessario rimarcare e denunciare in questo luogo e simbolicamente in tutte le altre carceri l'opprimente macchina normalizzante dello Stato. Riteniamo altrettanto necessario esprimere la nostra più sentita solidarietà ai compagni Michele, Adriano, Graziano, Lucio, Francesco, Nicola e Alfredo. Peraltro, proprio in questi giorni hanno lottato e vinto contro delle nuove restrizioni relative all'ora d'aria e della socialità decisa dalle guardie ferraresi. La nostra solidarietà va anche verso le compagne e i compagni perquisiti a Bologna in merito ai sabotaggi di dicembre all'alta velocità. Lottiamo anche contro ogni forma di delazione e infamia, inesorabili complici della repressione del potere. 25 gennaio, ore 15:30, presidio sotto il carcere di Ferrara, ma c'è stato ieri in via Arginone. E questo era per quanto riguardava il testo del manifesto che chiamava il presidio sotto il carcere di Ferrara. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Antrart, Now or Never, e poi dopo si torna qui con il continuo della lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. I told my hands Baran fece osservare che in caso di resistenza a oltranza ci sarebbe stato spargimento di sangue e che questo avrebbe aggravato la situazione. Quelli di fuori erano ormai alla porta. Una voce intimò: «Se aprite, immediatamente vi tratteremo con clemenza, altrimenti la pagherete cara!» «Dateci 5 minuti di tempo per rispondere», rispose Varlam uscendo dal silenzio ostinato in cui si era chiuso. «Ragazzi, non aprite, difendiamoci», scongiurò Ignazio. «Ma dove vuoi arrivare?» gli urlò in faccia Knot. «Teniamo duro finché non arrivano i bolscevichi, ci libereranno come hanno già fatto in tutte le altre città, ma che non sono stati loro!» «È stata la rivoluzione ad aprire le porte alle carceri», scattò Lucio. «Rimpiangerete amaramente di non aver saputo agire con coraggio.» Baran alzò la mano per chiedere la parola. «Ragazzi, non c'è più niente da fare, arrendiamoci. Non contare sull'intervento dei russi. Chissà quando arriveranno a Minsk e poi non è detto che ci liberino tutti dal primo all'ultimo. Consegnatemi le rivoltelle e le chiavi e ritornate tutti nelle vostre celle. Aprirò io la porta.» I dritti si allontanarono col cuore gonfio di amarezza e di disperazione. L'unica loro speranza, dalla quale avevano attinto forza e pazienza per lunghi mesi, era fallita. Davidka, che fino a quel momento era stato così spensierato e giulivo, ora piangeva di dolore e di rabbia. Jan, invece, sembrava indifferente. Tutta quella storia aveva un sapore così romanzesco che la sua immaginazione ne era rimasta insoddisfatta. Aveva fatto ciò che gli era stato ordinato, ma ora non si muoveva, preoccupato per la sorte di Baran, che era il principale responsabile della rivolta. «Vai via anche tu, Jan!» gli disse Oleg Baran, ed egli si allontanò lungo il corridoio. L'unico che indugiava ancora era Ignazio, fermo, con la rivoltella in pugno. Si mordeva il labbro inferiore e guardava Baran quasi con odio. «Beh, che cosa aspetti?» gli chiese questi, tendendo la mano per prendere l'arma. «Subito, subito, eccola! Arrivederci, compagno. Peccato, però», ma non finì la frase. Appoggiò la canna alla tempia destra e premette il grilletto. Oleg sentì che avrebbe potuto impedirgli quel gesto, ma non lo fece. Non è giusto privare un uomo che non vuol più vivere della libertà di andarsene nel momento che gli pare. Depose le rivoltelle e le chiavi per terra davanti alla porta, poi tirò il chiavistello e spalancò i battenti. Il suo sguardo, involontariamente, si posò per un attimo sulle sue scarpe che luccicavano alla luce del sole. Si udì un colpo di rivoltella, qualcuno gridò in tedesco: «Non sparare! Nichtschießen!» Oleg, ritto sulla soglia della prigione, invitava con un gesto ad entrare come un cortese padrone di casa che accoglie degli ospiti di riguardo. Un sottufficiale tedesco si avvicinò alla porta, pieno di boria. Vide chiavi e armi per terra e un po' più in là il corpo inerte di Ignazio. Poi si mise a esaminare il volto del detenuto che gli stava davanti. Aveva un'espressione calma e la bocca sembrava perfino atteggiata ad un sorriso. Solo lo sguardo aveva un'espressione di sconfinato disprezzo. Per un istante si guardarono negli occhi, in silenzio. Il vecchio sottufficiale comprese il dolore e il dramma di quell'uomo. Poi nella testa gli balenò un pensiero: potrei stringergli la mano. Nulla ammirava quanto il coraggio fisico. Avanzò di un passo e si chiese: che passerà nella testa di quell'uomo? E Baran, proprio in quel momento, stava pensando: ma che cos'è che starà facendo ora, adesso, la mia Paolinka? Change will do you good. I always knew it would. that untrue. Cold and conflict in the night. I never saw your body. Your kiss so sweet. Your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you. Libro terzo. La libertà di Svoboda e la libertà di Jan. Svoboda era un uomo che sapeva afferrare la fortuna per i capelli quando gli passava accanto. Esercitava la sua professione di borsaiolo con sicurezza, abilità e maestria. Ma se era in gamba nell'acciuffare le buone occasioni, era altrettanto in gamba nel non lasciarsi acciuffare. Da 3 anni non vedeva un commissario di polizia, perfino le retate nelle quali incappavano a volte i dritti più inafferrabili lo avevano sempre risparmiato. Alleggerire le tasche dei merli era la sua specialità, abile e metodico nel predisporre un colpo di mano, era addirittura imbattibile come improvvisatore. Aveva in casa una tale collezione di orologi che avrebbe potuto aprire un negozio di orologi. Con tutto ciò che non era una stella di prima grandezza nel cielo della mala, né un professionista nel vero senso della parola. Ma quanto a tecnica, la cedeva non solo a Mitra, ma anche a Tosca la Gazza. Aveva semplicemente una fortuna spettacolosa. Da qualche tempo si era talmente imbaldanzito che lavorava sempre da solo, senza l'aiuto di soci. Aveva anche avuto fortuna nella scelta della donna con la quale conviveva. La sua amante, una dritta anche lei, era bella, slanciata e simpatica. Si chiamava Sabinka e anche lei aveva un cavicchio mai visto. Rubava negli appartamenti, nei negozi, per strada, con geniale ecletismo, ma la polizia non aveva mai avuto il piacere di fare la sua conoscenza. La convivenza di quei due durava da oltre 1 anno. Vivevano con assoluta parità di diritti e non si davano mai fastidio a vicenda. Svoboda evitava di parlare di politica con Sabinka, soprattutto di comunismo, e quando per caso ci cascava, la ragazza gli faceva ogni sorta di boccacce, mostrandogli la lingua e fischiettandogli in faccia. Solo una volta si era degnata di rispondere che erano tutte balle, fandonie e schifezze, e che essa se le metteva là dove la gallina fa l'uovo. E Svoboda provò a offendersi. E io mi metti anche là a me. E si capisce, a te per primo. Ah sì, e Svoboda si alzò minaccioso. Ma Sabinka gli scompigliò i capelli, gli scoccò un bacino sulla punta del naso e in un balzo fu davanti allo specchio dove, fischiettandosi, mise a incipriarsi e a rimirarsi con compiacimento i floridi segni. Mi hai morsicato, demonio! Un'altra volta ti romperò il muso. Ma come si poteva parlare sul serio di comunismo con un accidente simile? Non c'era argomento che potesse smuoverla d'un millimetro. Quella totale mancanza di sensibilità politica era l'unica cosa che Svoboda rimproverava all'amante. Quel giorno Svoboda si alzò felice come una Pasqua. La città era stata occupata la sera precedente da reparti avanzati dell'esercito russo. Egli si vestì in fretta per recarsi in centro a sentire le ultime novità. Nella piazza della cattedrale era già stata montata una tribuna sulla quale si avvicendavano, arringando la folla, scalmanati oratori. Svoboda cercò di farsi strada coi gomiti tra la calca per sentir meglio, ma era un'impresa tutt'altro che facile ed egli dovette rinunziarvi. Così si succhiò da lontano le parole a lui tanto care o tanto esecrate. Libertà, sfruttamento del proletariato, uguaglianza, capitalismo, borghesia, terra ai contadini, fabbrica agli operai, abolizione della pena di morte, eccetera, eccetera. Le bandiere rosse garrivano al vento, le note dell'Internazionale volavano sopra la folla sopraffatta da irrefrenabili esplosioni di... Non ruberò mai più, decise con sincero slancio Svoboda al colmo dell'eccitazione. Da domani mi cercherò un lavoro, anzi, dovrebbero prendermi in qualche comitato russo o rosso. Sistemerò anche Sabinka, ci sposeremo e vivremo dignitosamente. E s'avviò verso casa con un'aria solenne e compunta. Voleva accendersi una sigaretta, ma non si trovò più in tasca né l'accendisigari né il portasigarette d'argento. Per la prima volta in vita sua si sentì un merlo e per giunta tutto l'entusiasmo che aveva suscitato l'arrivo tanto sospirato dei liberatori gli sbollì a un tratto e ne provò vergogna e cercò di vincere l'amarezza per non avvilire un giorno così solenne e quasi sacro. Allora comprò un pacchetto di americane e, giunto a casa, si abbandonò alle sue fantasticherie riempendo la stanza di fumo. Non era uno stupido Svoboda. Una profonda conoscenza della vita sostituiva in lui la mancanza di istruzione. Era un idealista e credeva ciecamente nel comunismo, per il quale avrebbe volentieri sacrificato tutto, anche la vita. Quando di sera Sabinka tornò a casa, trovò Svoboda che pensava ad alta voce al radioso avvenire dell'umanità e anche al suo personale avvenire. Si sarebbe fatto certamente una buona posizione nella nuova società e avrebbe lottato fino all'ultimo per la causa del proletariato. E allora Sabinka si mise a fischiettare. Poi, vedendo che il suo uomo tutto infervorato non aveva la minima intenzione di piantarla, lo interruppe bruscamente afferrandolo per il braccio. Svoboda, sei un povero scemo, ecco che cosa sei. Io non vado in giro come te con la bocca spalancata come un allocco. Posso dirti qualcosa che fa cascare tutte le tue stupide illusioni. Mi è bastato dare un'occhiata a un certo commissario rosso per attirarlo nella rete. L'ho fatto trincare ben bene in una bettola, poi me lo son portato a spasso fuori città, non mancando di fermarmi ancora alla prima osteria. E naturalmente, dopo un po' incominciavo a fare l'asino. Io confesso timidamente che sono ancora pulzella e che se vuole proprio provare deve prima sposarmi. Allora questi, il commissario rosso, comincia a vantarsi delle proprie ricchezze. Ha tutto lui, denaro, oro, gioielli, ne ha tanti da ricoprirmene, se credo si intende. E poi Sabinka scoppiò in una risata. Ah, ti interessa, eh? Vedi, caruccio, come conosco i miei polli. Gli ho fatto ingollare tanta vodka che dopo un po' è sprofondato in un sonno di piombo. E così ne ho approfittato per alleggerirgli le tasche. Chissà che non dorma ancora, felice e beato, in quella baracca vicino al passaggio a livello dove aveva intenzione di cogliere il fiore della mia verginità. Guarda qui, è un discreto bottino, no? E Sabinka gettò sul tavolo due orologi, un portasigarette d'oro, un portafoglio pieno zeppe di banconote e un sacchetto di pelle pieno anch'esso di monete. Poi tolse dal portafoglio un grosso plico di dollari, di rubli imperiali e di fogli interi ancora da tagliare di banconote di Kerensky. Sta certa che non era un comunista quello là, esclamò Svoboda, che non voleva credere ai propri occhi. E difatti non era niente meno che un commissario comunista. E tu non sei che un idiota. Idiota sei tu! Un comunista non accumula ricchezza. Quello che ha lo dà al partito. Ah, ma certo, è proprio così, lo scherni Sabinka. Non dico che tu non lo faresti perché ti manca un paio di rotelle nella zucca, ma loro, guarda qui. E tirò fuori dal portafoglio un altro plico. Erano documenti tra i quali c'era la tessera del partito bolscevico. Beh, sei convinto ora? Fece con aria di trionfo Sabinka. E di questa roba che ne dici? Sparpagliò sul tavolo alcune fotografie pornografiche, scosse il sacchetto facendone cadere molte monete d'oro d'argento, un anello con un grosso brillante e alcune polverine incartate. Ebbene sì, era cocaina. You're like a fool, you think I'm just a tool. You think you're number one, but you're like a dog. This guy is just a freak, he's acting like a kid. This time you will go on. E questa era Time T, What You Got. Ora si ripassa alla controinformazione con un testo da parte dei prigionieri del carcere di Korydallos di Atene. Il 16 gennaio 2015 c'è stata un'invasione dei poliziotti di ECAM, unità antiterrorismo e altre forze repressive, che hanno effettuato perquisizioni nelle celle dei nostri compagni prigionieri. Per questo non c'è stata la nostra ora d'aria e siamo rimasti rinchiusi tutto il giorno. Alcuni giorni dopo, durante l'ora di pranzo del primo dell'anno, è stato ordinato l'inizio dei trasferimenti dei prigionieri per inaugurare la Guantanamo greca Domokos, benché sino ad oggi i trasferimenti non avvengono con regolarità, giocando così il loro sporco gioco elettorale sulla nostra pelle. Sabato 3 gennaio, dopo l'invasione e l'indagine dell'ECAM, i nostri compagni e membri della cospirazione delle cellule di fuoco Christos Tsakalos e Gerasimos Tsakalos sono stati prelevati nella notte e trasferiti nel sotterraneo della prigione femminile a Korydallos. Dopo tutto questo abbiamo deciso di mobilitarci e come prima reazione abbiamo rifiutato di farci rinchiudere nelle nostre celle durante la giornata, fino a sabato 24 gennaio 2015. Nei giorni successivi, se sarà il caso, aumenteremo le nostre azioni. Ci stiamo muovendo per l'abolizione delle prigioni di tipo C, il ritorno di quanti già trasferiti nelle prigioni di tipo C a Domokos ed il ritorno dei nostri compagni prigionieri Gerasimos Tsakalos e Christos Tsakalos dal reparto in isolamento della prigione femminile di Korydallos verso la prigione che li rinchiudeva. Terzo punto, in questa protesta non accetteremo alcun trasferimento alle prigioni di tipo C, considereremo ogni atto di questo tipo come una vendetta nei confronti della nostra lotta e ci comporteremo di conseguenza. Quando Kutz Michaele, il direttore del carcere di Korydallos, e i procuratori Poimenidis e Marzioni smetteranno di permettere questi atti criminali ed illegali, non sono a conoscenza della tortura dei prigionieri o la stanno aiutando, che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Prigionieri delle ali A, B, C, D, E del carcere di Korydallos, ala di isolamento del carcere femminile di Korydallos. E questo era il testo dei prigionieri, quelli comuni del carcere di Korydallos in Grecia, che di fatto mostra anche una certa solidarietà tra detenuti o gran parte dei detenuti. Questa volta parlano esplicitamente dei compagni della cospirazione delle cellule di fuoco e del loro trasferimento. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Hardwire con il brano No Regret, Nessun Rimorso, e poi dopo si torna qui con l'ultima lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Straight back to your goal, lock it in full control. This is it, Ruby Point Break. Svoboda era sbalordito. Tuttavia, cocciuto com'era, non volle darsi per vinto e cercò di sottovalutare l'importanza di quei dati di fatto. Ma Sabinka non lo ascoltava più, calcolava tutta soddisfatta il valore dell'eccezionale bottino e quando udì l'amante dire improvvisamente «Bisogna restituire tutto al più presto!» rimbeccò sarcastica. «Che cosa? Chi?» «Rendere la roba a quel fezzo? Ma di, ti sta dando di volta il cervello! Senti, Svoboda, faresti meglio a farti curare, sai, dai sintomi girerei che hai almeno una tarantola nel cervello se non qualche bestia più grossa!» Ne nacque un litigio. Svoboda non voleva ritirare la decisione presa con tanta solennità e non senza una dura lotta interiore. Voleva essere coerente nei suoi principi e fermo nell'osservarli. «Restituirai tutto, ti dico. Troverò io il modo. Ma sono stufo del mestiere di ladro, voglio farla finita.» «Beh, allora, caro mio, vai all'inferno. Ma questa è roba mia, tienilo bene a mente, sono io che me la sono guadagnata.» E litigarono ancora un po' straccamente, senza troppa convinzione però, perché morivano dal sonno, poi andarono a letto. Il corpo morbido e flessuoso di Sabinka era più convincente di tutti gli slogan comunisti messi insieme. Svoboda lasciò da parte la politica e i due amanti, sazi di carezze, piombarono in un sano sonno ristoratore. L'indomani, Svoboda non accennò più al suo proposito del giorno prima di restituire il bottino al signor commissario, tuttavia sentiva sempre vivo in sé il desiderio di incominciare una nuova vita. Anche quello era un ideale, e Svoboda aveva un debole per gli ideali. Secondo lui non c'era nulla che valesse di più nella vita. Si fece accuratamente la barba e indossò il suo abito migliore e poi uscì dirigendosi verso il centro. Era ancora presto per andare a rompere le scatole nei comitati e decise intanto di fare due passi in via Zakharievsk. Lungo i marciapiedi e in mezzo alla strada c'era un gran viavai di soldati dell'esercito russo, sporchi con uniforme lacere, che si potevano chiamare uniformi cenci di cui erano vestiti. Ma Svoboda li guardava incantato. Per lui quelli erano gli eroi della lotta per la libertà degli oppressori, i cavalieri del proletariato. Si trovò alla stazione, dove c'era un'indescrivibile calca. Sulla piazza erano accesi dei fuochi attorno ai quali sedevano a bivacco gruppi di soldati. Alcuni, sdraiati a terra, dormivano col capo appoggiato agli zaini. Svoboda si accostò a uno di quei gruppi e sedette sul marciapiede accanto ai soldati, poi offrì loro delle sigarette e, sorridendo, tutto commosso, cercò di attaccare discorso. «Che bellezza, compagni! Siete arrivati finalmente!» «Bellezza! E perché?» chiese un soldato. «Beh, eravamo stufi di quegli stramaledetti tedeschi, ne avevamo abbastanza dei tiranni a Minsk.» Nessuno gli rispose e Svoboda continuò. «E adesso dov'è che andrete, compagno?» Uno dei soldati gli lanciò un'occhiata sospettosa. «Beh, e a te che te ne frega?» «Ah, scusa, era così per simpatia, compagno.» «Ma che compagno d'Egitto, a te chi ti conosce? Non ti accorgi come storpi la nostra lingua?» Beh, in effetti il russo di Svoboda lasciava molto a desiderare. «Ma sono venuto a darvi il benvenuto di cuore con tutta l'anima», balbettò Svoboda. «Faresti meglio a girare al largo, sai, ce ne abbiamo abbastanza di marmaglia in giro. Sei forse una spia?» Svoboda, tra l'offeso e l'amareggiato, si allontanò e salì i gradini della stazione. Le sale d'aspetto, la galleria di testa e le pensiline rigurgitavano di militari. Proprio in quel momento entrava sotto la tettoia un treno merci proveniente da Borisov. I carri bestiame erano pieni zeppi di soldati russi. Mentre scendevano, Svoboda notò che un soldato, saltando a terra, perdeva nella confusione un pacco avvolto in una tela cerata. Subito si precipitò a prenderlo con l'intenzione di restituirlo al proprietario, ma la ressa era tale che lo perse di vista, benché facesse sforzi sovrumani per raggiungerlo e continuasse a gridare a squarciagola: «Compagno Tovarish! Compagno Tovarish!» Seguitò ad andare spinto dalla folla nella stessa direzione, tenendo il pacco alto sopra la testa perché il proprietario potesse riconoscerlo, e a un certo punto si sentì afferrare per il collo, voltò la testa e ricevette in pieno viso un violento ceffone. E nello stesso tempo qualcuno gridò: «Compagni Tovarish! Al ladro! Acciuffatelo!» Il pacco, quel pacco, venne strappato dalle mani di Svoboda, che si vide circondato da facce torve e cattive. L'ho trovato, volevo solo restituirlo», balbettò. «E perché non l'hai fatto?» «Non contar storie, stavi per squagliartela, farabutto. Inutile discutere con lui, sotto!» E una gragnola di pugni e di calci che in pochi istanti si tramutò in una vera valanga si abbatté sul disgraziato. «Compagni, Tovarish, compagni!» gemeva Svoboda atterrito. Cercò di sgusciare tra le gambe che lo circondavano, ma non gli riuscì, anzi, questo tentativo di fuga fece imbestialire ancora di più i soldati. Allora Svoboda fece il morto. Rimase immobile, supino, sopportando senza più reagire i colpi più temibili, per far credere che egli avesse già esalato l'anima a Dio. Ma anche questa commedia non servì a nulla. Uno scarpone ferrato lo colpì con violenza sulla tempia, tramortendolo. I cavalieri del proletariato continuarono ancora per un pezzo a sfogare su quel corpo inerte e afflosciato il loro malumore per la notte passata in carro bestiame e per i disagi della guerra. Ormai sul marciapiede non c'era che una massa scura e sanguinosa contro la quale inciampavano i soldati lanciando bestemmie. Stavolta era morto sul serio Svoboda. È così, eh sì, finì il sogno di un ladro che anelava una vita onesta sotto le bandiere rosse della rivoluzione.